Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza. Questo è il cinema Visionari, tutti i giovedì dalle 14 alle 15, ma spesso e volentieri anche un po' prima, come in questo caso, in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. sull'home page c'è Ascolta la diretta e sull'home page trovate anche sulla colonna centrale, alla voce trasmissioni Visionari, la scaletta della trasmissione di oggi e le informazioni sulla trasmissione. Per quanto riguarda l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info, c'è anche per le informazioni la pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa. Eccoci con Gloria Germani di Cine Hall Distribuzione per parlare del documentario Capire il passato per vivere felici, in uscita proprio oggi, se non sbaglio, vero Gloria? No, esatto. Benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti voi. Allora, intanto partirei dall'esperienza Cine Hall Distribuzione, che non conoscevo. Raccontaci un po'. No, siamo una piccola distribuzione, però ci occupiamo proprio di questi film sui nuovi paradigmi di pensiero. Abbiamo appunto editato due film, questo è il secondo, di Eleanor Bertocci, un film sui rifiuti interpretato da Jeremy Irons, che ha avuto un grande seguito perché da quando l'abbiamo editato 3 anni fa, insomma, il tema dei rifiuti sta veramente cambiando e sta veramente a cuore di tutti. Ormai si fa soltanto differenziata un po' in tutte le città italiane, quindi siamo molto soddisfatti. Comunque sono film che si occupano di ecologia, nuovi paradigmi e documentari per una nuova visione del mondo. Senti, questo lavoro, questo documentario racconta, intanto per chi ci ascolta, diciamo di cosa si tratta, di cosa parla. Allora, questo film, a cui abbiamo in inglese Ancient Future, in italiano Capire il passato per vivere felici, è la pietra miliare dell'antropologa Helena Norbert Hodge, che è tra le 8 attiviste ambientali più importanti del mondo, ed è di fatto il cuore della sua esperienza. In questo film ci racconta come, quando raggiunse il Ladakh, che è il piccolo Tibet, il piccolo Tibet indiano, all'inizio degli anni 70 addirittura, trovò una terra fondamentalmente intatta da secoli e secoli, però il loro quello che vide era straordinario, perché non solo un sistema perfettamente ecologico, ma un sistema anche giusto, non esistevano i poveri, e anche delle relazioni sociali meravigliose, la felicità su tutti i visi. Lei vivendo ha dedicato a questa terra molti anni, oltre 40 anni, e ha visto come al momento dell'apertura delle barriere doganali, insomma l'apertura delle frontiere, questa società si è andata incrinando, per quanto poi ci siano tanti movimenti che cercano di mantenerla, ma quanto ci siano un immaginario imposto dall'Occidente che fa sgretolare le cose essenziali per la vita. E mi fa piacere che veramente anche la critica uscita su My Movies in questi giorni abbia colto veramente la novità di questo approccio, che non è solo passatista, assolutamente no, ma riconosce che questo film è veramente rivoluzionario, da una visione autorevole di quelle che sono le basi vere della vita, che forse noi in questa nostra corsa alla modernità ci siamo molto dimenticati. Gloria, come avete incontrato questo documentario e come avete poi deciso di distribuirlo? Ma ti dico, questo è il secondo che facciamo di Elena Norbert Hodge, per cui ormai da quando abbiamo fatto il primo, che si chiama Economia della felicità, insomma, è poi nata anche una molto bella amicizia, tra le altre cose, quindi insomma è una vera consonanza di idee e anche di affetti, sentimenti. In che forma uscirà oggi? Allora, il film esce nelle sale, però esce anche il 4 di aprile, esce in DVD con CG Entertainment, e quindi sarà disponibile anche su Amazon, in tutte le librerie, eccetera, perché ovviamente è un film che ha una doppia valenza, soprattutto per i gruppi e per le associazioni. Senti, per saperne di più c'è una vostra pagina Facebook, un sito internet di Cinehall? Certamente, la nostra pagina Facebook, Capire il passato per vivere felici. Poi abbiamo sempre sia Facebook che una pagina che è l'economia, www.l'economiadellafelicità.it, e un sito che si chiama Satyadoc, che raccoglie tutti i nostri documentari. Benissimo. Allora, un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Grazie. Un'ultima cosa che volevo raccontare è che questo film era stato molto apprezzato, e il film, anche il testo del libro da cui viene, anche da Tiziano Terzani, che lo consiglia a tutti. Ecco. Benissimo. Va bene, grazie. Un abbraccio. A voi, arrivederci. Non era prevista in scaletta, ma volentieri ospitiamo Israel Cesare Moscati, co-regista del documentario Alla ricerca delle radici del male, che sarà presentato domani, venerdì 24 marzo, al Teatro Brancaccio. Israel, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Benvenuto a voi, grazie. Allora, raccontaci un po' di questo lavoro, intanto, per chi ci ascolta. È un lavoro che nasce circa 4 anni fa con altri documentari che io ho realizzato, I figli della Shoah, Un viaggio nell'anima dei figli della Shoah, Sfonata ancora, e I ghetti brutto mai elaborato. Dopo questi 3 documentari viene, diciamo così, il desiderio, che non mi sarei mai aspettato, di poter realizzare questo nuovo documentario dal titolo Alla ricerca delle radici del male, e che è diviso in 3 step ben precisi. Ho rincontrato i figli della Shoah, per poi incontrare i figli e i nipoti dei nazisti, per poi far incontrare i figli e i nipoti dei nazisti insieme con i figli della Shoah. E li ho fatti incontrare, e tutto quanto è nato lì in quel momento, non c'è stato nulla di preparato, strutturale, di preparato, nei luoghi simbolo, che si sono incontrati alle fosse ardetine, sono incontrati davanti alle camere a gas di Birkenau, e sono incontrati in una foresta a Cracovia, dove hanno uscito circa 30.000 ebrei in un solo giorno, e poi sempre un altro luogo di Cracovia, dove hanno ucciso circa 70.000 ebrei. Questo è stato un lavoro molto forte, di impatto emotivo fortissimo. C'erano dei momenti, onestamente, che avrei voluto abbandonare, però sono molto legato alla fede, ho lottato tantissimo per potermi superare, e grazie a te ci sono riuscito. Senti, quanto è durato questo lavoro e quante persone tra quelle che hai intervistato, allora, hai coinvolto? Sì, sono state coinvolte circa 12 persone, tra i figli della Shoah, i figli dei nazisti. Poi è durato circa un anno e mezzo il lavoro, è stato un lavoro di attenta ricerca. Ho avuto tantissimi rifiuti da parte, in particolar modo da parte dei figli dei nazisti, e ho avuto anche dei rifiuti da parte, diciamo, dei figli della Shoah, giustamente perché loro non avevano nessun desiderio di poter incontrarsi da ambo le parti. Ma diciamo, da parte dei nazisti sono molto più forte, molto più acuta e molto più violento il rifiuto, a differenza, no, per presa di parte, da parte dei figli della Shoah. Senti, ecco, rispetto ai figli dei carnefici, cosa è uscito fuori e che magari ha anche sorpreso? Allora, ti posso dire che loro, se avrete modo di vedere il documentario, hanno fatto un lungo percorso. C'è chi ha rotto direttamente con le proprie famiglie perché non volevano assolutamente che se ne parlasse, c'è chi non parla più da tantissimi anni con i propri genitori, cecchi volati nella, nascosto, mentre loro hanno lottato per poter portare avanti la verità. Ed è costata molto cara sul piano sia individuale, sul piano esistenziale e anche psicologico. E diciamo, da parte loro c'è stata questa grande volontà. E devo dire che trovarmi di fronte a persone che i nonni hanno ucciso 80-90 mila ebrei non è stata una cosa facile. Senti, domani ci sarà questa presentazione al Teatro Brancaccio. Come è stato, come viene fuori questo evento? Questo evento viene fuori, naturalmente, innanzitutto devo ringraziare Rai Cinema, che è stata grandissima, che ha dato il supporto per poter portare avanti questo progetto. Loro, naturalmente, in maniera molto diciamo sarcastica, dicono che non ce l'avrei fatta, perché mai avrebbero potuto pensare che i figli di Nardizzi, i nipoti di Nardizzi, potessero incontrarsi con quelli de, con i figli e i nipoti della Shoah e poi nei luoghi simboli, come ti ho detto precedentemente. È stata fatta una scommessa, tra virgolette, e loro sono stati veramente molto felici, e io li devo ringraziare tantissimo, perché oltre a questo loro hanno anche la possibilità di poter realizzare i figli della Shoah, come ho detto, e sono ancora che questo film, questo documentario è stato visto da 10.500 ragazzi, con i quali io ho incontrato qui a Roma oltre 25 scuole, che una volta poi finito la proiezione del film, del documentario, lo dibattiamo insieme, e loro hanno fatto dei lavori. E questo progetto che io ho realizzato, che si chiama Il nostro passato appartiene al vostro futuro, domani verrà premiato per i migliori 4 lavori che sono stati fatti da questi ragazzi. Ne sono stati scelti 4, uno audiovisivo, uno letterale, uno poetico e uno anche artistico. E hanno preso parte 20 scuole romane più 3 scuole calabresi, e domani è stato un lavoro anche molto complesso nella premiazione, perché hanno fatto dei lavori questi ragazzi straordinari, ma veramente straordinari, e per sceglierli che è stata creata una commissione con Rai Cinema, con Mipac, con Miure, con la comunità ebraica, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, con me stesso e con me personalmente e con la produzione. E abbiamo scelto 5 progetti dai migliori. Però lo dico col cuore, è stato bravo a tutti, perché hanno fatto dei temi di audiovisivi straordinari. Senti, ascoltando le tue parole, mi veniva in mente anche una domanda rispetto a questo incontro tra figli e nipoti di carnefici e figli e nipoti delle vittime. Questo incontro è uscita fuori un'indicazione per il superamento di questa tragedia? E come poi? No, loro non hanno assolutamente superato nulla. Okay. Sul piano del dolore, no. Certo. È quello che a me mi ha molto colpito, perché noi figli della Shoah il dolore ce l'abbiamo in quanto vittime, ed è una ferita che è difficile da rimarginare. Però, come ho sempre detto, i miei lavori sono sempre proiettati per un futuro migliore, e questo futuro migliore, questa speranza del domani, mi ha dato la forza di poter superarmi di fronte a questa forte emotività. E devo anche dire che da parte loro il dolore è grande e si sente, si percepisce, perché quando io l'ho intervistati, e le interviste non nascono preparate, ma nascono sul luogo, e quando loro, i figli dei nazisti, i figli della Shoah, che hanno incontrati, nulla di preparato, tutto nasce là, io ho potuto veramente sentire la realtà, toccare con mano la verità. Ecco, questo è molto importante da sottolineare. Oltre alla nessuna giustificazione, facciamo molta attenzione a questo, che non venga interpretata come fonte di giustificazione. Okay. Non ci sono giustificazioni per nulla e per nessuno, ma c'è una realtà visiva che poi, attraverso il film, chi la vede la può comprendere bene. Okay. Il dramma della Shoah, non c'è giustificazione per nessuna generazione a venire o passata, è stato, lo è e lo sarà. Pertanto questo va molto sottolineato, questa cosa. Mm-hmm. Facciamo molta attenzione. Sì, sì. Oh, oltre all'appuntamento di domani, poi che ne sarà del documentario? Il documentario poi verrà naturalmente riproposto nelle varie scuole. Questa volta si parla di scuole in tutta Italia. Sarà un lavoro, un altro lavoro straordinario, dove verrà proposto il film, dove verrà elaborato il film e dove faremo più o meno la stessa cosa con i ragazzi, dove faranno un loro scritto, un loro audiovisivo di fronte a tutte le emozioni che hanno potuto vivere e che vivranno attraverso la visione del documentario. Mm-hmm. Ed è un bellissimo lavoro. Mm-hmm. E questo rimane sempre un progetto, il nostro passato appartiene al vostro futuro. Mm-hmm. Che io ho voluto che grazie a Dio sono riuscito a creare, a realizzare sempre, sempre, devo dire grazie a Rai Cinema, alla Rai in generale e a Rai Cinema in particolare, insomma. Io ti ringrazio, ricordiamo l'appuntamento di domani al Teatro Brancaccio qui a Roma. Dimmi. Sì. No, attenzione, perché per poter essere partecipi io posso darti anche una mia email. Chi sente la trasmissione e desidera venire, perché non abbiamo tanti posti a disposizione, domani ci saranno più di 1100 persone già. Quindi occorre prenotarsi. Sì. Ecco, se tu vuoi io ti posso dare un contatto dove potere. Allora sì, diamo un riferimento. Guarda, allora un riferimento è su Facebook. Sì. Semplicissimo, c'è un blog che io ho creato che si chiama Un mondo che non dimentica punto la Shoah. Ok, lì loro possono scrivermi, aderire al blog, perché questo blog è fatto per i figli della Shoah, ma non sono soltanto a livello ebraico, ma universale, perché la Shoah è vero che appartiene al popolo ebraico che è stato il più colpito, ma la Shoah appartiene al mondo. Un abbraccio e alla prossima. Grazie a ciao, te. Ciao, a ciao, presto. Ciao. Questo per quanto riguarda il documentario Viaggio, scusate, alla ricerca delle radici del male, con il coregista Israel Cesare Moscati. Con Pietro Murchio del Cinecircolo Romano per parlare della 13ª edizione del premio Cinema Giovane Festival delle Opere Prime dal 20 al 24 marzo, quindi in pieno svolgimento. Pietro, ben ritrovato su queste frequenze. Bene, buon pomeriggio. Allora, 13ª edizione, per chi non conoscesse questa manifestazione, raccontaci un po' di cosa si parla. Allora, in questa manifestazione si fa come nella Mission una celebrazione del cinema giovane italiano, dando visibilità ai registi esordienti che vengono selezionati da una specifica commissione entro l'inizio dell'anno in corso, ed è relativa a tutte le opere prime che sono uscite nell'anno precedente. Quindi stiamo parlando delle opere prime uscite in sala nel 2016. La manifestazione è stata inaugurata nel 2004, quindi siamo giunti alla 13ª edizione e abbiamo avuto l'occasione di visionare ben 401 opere prime, delle quali ne abbiamo selezionato un centinaio da far vedere al pubblico, in modo che possa apprezzare anche dei film che spesso circolano molto poco nelle sale, insomma. Senti, questa 13ª edizione quante opere accoglie e quali sono? Allora, la 13ª edizione accoglie 10 opere, 9 sono opere prime e una invece è un'opera del cinema giovane italiano selezionata per il miglior interprete giovane. Le opere che sono in concorso sono Il più grande sogno, La ragazza del mondo e The Pills. A queste si aggiungono poi altre opere selezionate che sono 2 euro l'ora, I Corborani, L'Universale, la pelle dell'orso, wax, Fräulein, e poi infine La vita è possibile di Ivano De Matteo, che sarà il film che accompagnerà la cerimonia di premiazione che ci sarà domani sera alle 21 all'Auditorio San Leone Magno. Benissimo. Senti, com'è la modalità delle giornate del premio? La modalità delle giornate è questa, che le prime tre giornate, che sono appena trascorse, lunedì, martedì e mercoledì, sono dedicate alle proiezioni dei film in concorso, alla mattina per gli studenti e al pomeriggio, alla sera per gli adulti. Quindi abbiamo fatto vedere nei tre giorni scorsi i tre film in concorso che sono stati sottoposti al giudizio del pubblico su un'apposita scheda che è stata da me da poco visionata, e quindi non vi posso dire che ha vinto, però venite domani sera alla cerimonia per sapere chi ha vinto tra i tre film in concorso. Benissimo. Per ognuna delle proiezioni è prevista la presenza del regista, che viene intervistato in pubblico, e questo pomeriggio in particolare ci sono ben quattro film in sequenza e quattro interviste dei registi dei film che vengono presentati. Benissimo. Allora, i riferimenti web per il Cinecircolo e per il premio i riferimenti web sono www.cinecircoloromano.it, e nell'ambito del sito web c'è la sezione Premio Cinema Giovane, nella quale c'è anche il programma dettagliato. Benissimo. Allora, un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie, a presto. Ciao Pietro, ciao. Ciao Pietro. Pietro Murchio del Cinecircolo Romano sulla 13ª edizione del Premio Cinema Giovane Festival delle Opere Prime, cominciato il 20 e fino al 24 marzo domani qui a Roma. Eccoci nuovamente con Michele Tarzia di Movimento Milk per parlare con lui dei prossimi appuntamenti, le prossime tre giornate, il 25, il 29 e poi dal 20, anzi no, sono quattro giornate, dal 29 al 31 marzo. Michele, ben ritrovato. Ciao Federico, buon pomeriggio a tutti. Allora, intanto diciamo dei luoghi che ospiteranno questi nuovi appuntamenti. Sì, i luoghi, innanzitutto ci troveremo a Reggio Calabria, il luogo sarà una residenza universitaria della facoltà di architettura che adibisce, dona questo spazio per incontri sia cinematografici sia legati a ruoli un po', no, di cultura. E faremo questi tre giorni di proiezioni di cinema indipendente, 29, appunto 30 e 31 marzo. Allora, parliamo un po' delle opere che saranno presentate. Allora, in questa retrospettiva faremo un dittico, alcune opere di Tommaso Cotornei e alcune opere mie, a parte Movimento Mix, sono delle opere che ho firmato da solo. Primo giorno ci sarà una selezione uno degli ultimi film di Tommaso, che si chiama Covered with the Blood of Jesus, presentato negli ultimi edizioni al Festival di Pesaro, più un mio nuovo film che si intitola Il silenzio di James Joyce. E poi nelle serate a seguire altri lavori vecchi di Tommaso più altri miei. Sarà una due tre giorni di retrospettiva dedicati un po' principalmente a Tommaso, perché l'idea è stata quella di coinvolgere lui, che è nato in un paesino in provincia di Vibo Valentia, e poi accostare in qualche modo il mio percorso, visto che siamo nati nello stesso paese, ma con linguaggi stilistici e narrativi un po' differenti. Quindi questo è il racconto che si farà in questi tre giorni, accompagnati poi da una visione di un documentario di De Seta che si chiama In Calabria, che è un film del 93, che è poco conosciuto, che in qualche modo unisce la visione di Tommaso e la mia. Quindi ci farà dal fil rouge, no? In qualche modo ci accompagna in questo percorso. Senti, allora intanto parliamo anche brevemente, per chi ci ascolta, dell'esperienza Movimento Milk. Sì, il Movimento Milk è un duo artistico che nasce nel 2011, e da lì porta avanti un'idea di cinema che vuole essere in qualche modo sperimentale, di ricerca, che non ha dei, che non segue dei canoni classici, ecco, che in qualche modo rompe con delle regole. E da lì si porta avanti un discorso anche su, si cerca di lavorare sulle nuove estetiche dei linguaggi, quindi come il cinema, come le immagini in movimento possono essere in qualche modo diventare degli ibridi, cioè non creare dei generi. E quindi negli anni si sta lavorando su questo, ma ovviamente oltre noi ci sono varie realtà in Italia che si occupano di questo linguaggio. Senti Michele, visto che si svolgerà tutto in Calabria, com'è il terreno per la vostra cinematografia lì? Beh, bella domanda. È un terreno in qualche modo... No, il terreno è buono. Il terreno è buono. Oserei dire anche fertile, ma ci sono delle realtà molto molto interessanti. Soprattutto per quando io mi riferisco soprattutto al cinema che mi è molto più vicino, no? Quindi un cinema di ricerca, un cinema sperimentale, un cinema che va oltre al cinema delle grandi sale, e ci sono delle realtà abbastanza attive. Noi in questi anni abbiamo fatto questa rassegna che si chiama Visione di Cinema Indipendente, questo è il quarto anno, e abbiamo proprio l'idea di questa rassegna è quella di far vedere il nuovo cinema in qualche modo giovane calabrese, e in questi anni sono passati diversi autori, sia giovani sia più affermati, tra cui Arturo Lavorato e Felice D'Agostino, che negli ultimi anni hanno vinto la sezione Orizzonte Festa di Venezia. Felice è stato anche redattore di questa radio, tra l'altro. Quindi altri autori come Giorgio Costantino e Fabio Badolato, che poi sono emigrati verso il nord e hanno creato una rivista molto bella che si chiama Rifrazioni dal Cinema, autori anche come Marco Perri, Emiliano Barbucci, ci sono autori, cito anche Vincenzo Garigari. Ovviamente siamo in un panorama molto più underground, ecco, però devo dire che è bello, affascinante. C'è poco, ma è buono, secondo me. Poco ma buono. Michele, ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Sì. Allora, per questa 3 edizioni, il sito dove potete trovare tutte le informazioni, circolozavattini.it, oppure la pagina Facebook Circolo del Cinema Cesare Zavattini. E ne approfitto per dare il prossimo appuntamento, sempre su Visione di Cinema Indipendente, che sarà a maggio, dall'8 all'11 maggio. Faremo una retrospettiva su Franco Piavoli, sempre a Reggio Calabria, dove ci sarà presente anche lui, accompagnato da Luca Ferri. È questo, quindi magari poi ci risentiremo più in là. Perché no? Un abbraccio Michele, a presto. Grazie. Ciao. Michele Tarzia di Movimento Milk, sui prossimi appuntamenti il 25 e dal 29 al 31 marzo in Calabria. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema, tutti i giovedì dalle 14 alle 15 in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta. Sul sito trovate anche, sempre sull'home page, colonna centrale, trasmissioni, Visionari, tutte le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione. Idem per quanto riguarda la pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Emanuele Di Nicola, coordinatore di Oltre lo Schermo, lezioni conviviali di cinema al Kino qui a Roma. Domenica 26 marzo il prossimo appuntamento. Emanuele, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Sì. Sì, ciao Federico e buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie per lo spazio che ci date. Avevamo già affrontato la rassegna Oltre lo Schermo, si prosegue un nuovo appuntamento, per chi ci ascolta di cosa si tratta? Allora, la nostra iniziativa si chiama, come hai già detto tu, Oltre lo schermo, lezioni conviviali di cinema, e si svolge al Cineclub Chino di Roma, che è il noto cineclub del Pigneto. Sono una serie di lezioni di cinema, monografiche o su registi oppure su argomenti specifici. Noi abbiamo scelto, al contrario delle facoltà di cinema, delle storie del cinema con la S maiuscola, di fare invece una lezione conviviale, infatti questo è l'aggettivo che abbiamo dato ai nostri eventi, ed è conviviale perché da una parte si svolge nella sala bistrò del Chino, in cui è possibile anche mangiare e bere, quindi le persone che vengono vedono sequenze di film sorseggiando un bicchiere di vino oppure mangiando qualche cosa, e d'altra parte anche per il carattere dei relatori, perché le persone che presentano i registi, i singoli spezzoni di film, hanno un approccio rigorosamente anti-accademico, cioè noi non vogliamo fare della critica chiusa, fine a se stessa, incomprensibile, bensì vogliamo fare una critica divulgativa che riesca a tenere insieme il fatto di riflettere su un regista, su un determinato periodo storico all'uscita della sala, per così dire, quindi andare oltre lo schermo, oltre quello che c'è nel film, cercare di riflettervi sopra, e dall'altra parte però anche farsi capire, essere comprensibili. Questo è un po' il senso della nostra iniziativa, che è un'iniziativa che nacque inizialmente ad Arezzo per mano di due persone, Marco Compiani e Giusy Nibbi, che l'hanno fondata, e poi piano piano è arrivata a Roma e siamo riusciti a installarla nel Cineclub Chino attraverso un accordo con loro che ci hanno molto ben accolto. Quello che inizia domenica è il secondo ciclo, perché ne abbiamo già fatto uno sempre di domenica sera al Chino, un ciclo che è andato molto bene, perché noi inizialmente non eravamo sicuri di riuscire a portare gente a lezioni di cinema la domenica sera a Roma, a monografie su registi, insomma, e in una città, la nostra, in cui non ci sono tante iniziative, in cui il cinema è un po' lasciato andare a se stesso, nel senso che le persone vanno in sala ogni tanto a vedere un film, ma c'è poca riflessione dopo. E invece abbiamo visto che nei nostri primi incontri gradualmente la sala ha cominciato a riempirsi, quindi molte persone ci hanno seguito, molte persone hanno interagito con noi, è piaciuto l'approccio anti-accademico, e quindi siamo riusciti a parlare di cinema vero. Abbiamo fatto serate su maggiori cineasti contemporanei come David Lynch, Wes Craven, che è scomparso ma comunque rimane seminale nella storia dell'horror. Poi abbiamo fatto una serata sulla nuova Hollywood, una sul colore del cinema e una su Michael Mann. Adesso torniamo proprio da domenica prossima alle ore 21, e abbiamo scelto di aprire con un nome pesante, ovvero Ken Loach. Loach non ha bisogno di presentazioni, soprattutto per i vostri ascoltatori, perché è il grande regista della working class inglese, e abbiamo deciso di fare questa apertura con la serata Loach dopo che lui ha vinto la seconda Palma d'Oro al Festival di Cannes, perché l'ultimo festival, ricorderete, è andato proprio a lui con la vittoria finale di Io, Daniel Blake, seconda palma, perché lui l'aveva già vinta 10 anni prima con Il vento che accarezza l'erba. E quindi domenica sera alle ore 21 al Chino faremo una passeggiata all'interno della sua filmografia, con una lezione proprio a cura mia, che apro il nuovo ciclo e che ho intitolato Sfidare il racconto dei potenti, perché Ken Loach è uno che continuamente sfida il racconto dei potenti attraverso un altro racconto, che è la sua versione, una versione che è rigorosamente dalla parte dei poveri, degli ultimi, dei deboli, e che per 50 anni ha portato avanti questo cinema, perché il suo primo film è del 1967, si chiama Paul Coe, e l'ultimo film è appunto Io, Daniel Blake dell'anno scorso, quindi sono proprio nel 2017 ricorrono i 50 anni di cinema di Ken Loach. Anche questo diremo domenica sera, e quindi questo è un compleanno importante, 50 anni di cinema. Naturalmente questo è un regista molto controverso, e sarà l'occasione domenica anche per smentire alcuni luoghi comuni, perché il luogo comune critico su Ken Loach sbagliato è quello che vuole che lui sia un regista importante per i suoi argomenti, quindi naturalmente per la descrizione dei lavoratori, per le sue posizioni di sinistra, e invece noi pensiamo che lui sia un regista fondamentale nel panorama cinematografico oggi, soprattutto soprattutto per il suo approccio stilistico, cioè la descrizione della realtà. Come descrive la realtà Kellogg, cioè come la ricostruisce in modo scientifico, lo diremo proprio domenica sera nella nostra riflessione al chino. Dopo Loach, però, questo è solo l'inizio del nuovo ciclo di Oltre lo schermo, lezioni di cinema, perché ce ne saranno altri che abbiamo stabilito e che vi vado a ricordare. Domenica 9 aprile, sempre alle 21 al chino, si parla di Wes Anderson, della lezione che si intitola Vero come la finzione, una lezione che sarà a cura di Ilaria Feule, che è una critica del settimanale Film TV e che è soprattutto l'unica persona che finora ha scritto una monografia su Wes Anderson in Italia. La sua monografia si chiama Genitori, figli ed altri animali, quindi è sostanzialmente la maggiore esperta di Wes Anderson, che presenterà appunto questo autore. E anche Anderson non ha bisogno di presentazioni, perché ormai nell'universo cinefilo è un punto di riferimento per tutti. E andando avanti, domenica 23 aprile invece c'è Stanley Kubrick, Eyes Wide Open si chiama la lezione, a cura di Marco Compiani, che è un critico cinematografico, redattore degli Spietati e anche presidente dell'associazione Doppio Sogno, che organizza questa iniziativa. E quindi lui presenterà proprio la filmografia di Stanley Kubrick, facendo una passeggiata dentro i film del maestro. Poi, come ultimo appuntamento, invece faremo un evento speciale sabato 6 maggio che si chiama Twin Peaks Party, una festa per Twin Peaks. In questo caso l'iniziativa si sposta dalla domenica al sabato sera, perché ci sarà una proiezione che riguarda Twin Peaks che poi diffonderemo, e dopo ci sarà un DJ set ispirato proprio alle musiche del capolavoro di David Lynch e Mark Frost. Naturalmente questo chiuderà tutta la stagione, diciamo, di Doppio Sogno, lezioni di cinema al chino, ed è dedicato alla terza serie di Twin Peaks, che, come tutti i cinefili sanno, inizia a maggio. Quindi ci è parso il caso di fare una riflessione proprio su cosa ha significato Twin Peaks nella storia della serialità televisiva. Quindi domenica prossima Kellogg alle ore 21, 9 aprile Wes Anderson, 23 aprile Stanley Kubrick e 6 maggio il party di Twin Peaks. Questo è un po' il nostro programma, ma magari avremo anche modo di riparlarne. Ci lasci tutti i riferimenti internet? Assolutamente, noi ci chiamiamo Associazione Doppio Sogno e ci trovate sulla nostra pagina Facebook con questo nome, Associazione Doppio Sogno. Lì potete trovare tutto il nostro programma, che rilanciamo di volta in volta. Va detto, questo è molto importante, che l'ingresso al chino è libero, è gratis con tessera ARCI, quindi basta avere la tessera ARCI e si possono seguire tutte le lezioni. Coloro che non ce l'hanno invece la possono fare all'ingresso del Cineclub, e la tessera vale per tutto il 2017, quindi diciamo pagano una volta e possono vedere tutte le iniziative del chino. Però noi ci abbiamo tenuto a farla ingresso libero con solo la tessera ARCI, proprio perché vogliamo che il cinema sia divulgativo e che le lezioni siano per tutti. Un abbraccio e alla prossima, in bocca al lupo, Emanuele. Grazie, Pepi. Ciao, a presto. Ciao. A presto. Emanuele Di Nicola, coordinatore di Oltre lo Schermo, lezioni conviviali di cinema al chino qui a Roma, la prossima domenica 26 marzo. Con Laura Cini, regista del film L'ombelico magico, che sarà all'Apollo 11 domani, venerdì 24 marzo. Laura, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, ciao, buongiorno. In treno, in zona di gallerie, ma speriamo bene. Allora, per chi ci ascolta, L'ombelico magico, di cosa tratta? Allora, L'ombelico magico è un film documentario che racconta la storia del rapporto tra una giovane anziana, cioè tra un'anziana con poteri ancestrali, una giovane ragazza che vorrebbe diventare la sua erede, ed è ambientata in Versilia, che è questa zona di contrasti tra una vita molto glamour delle coste, piena di club e decadente, e queste tradizioni ancestrali all'interno. Il film ci sta molto su questi contrasti. Senti, come viene fuori quest'idea del film? Allora, questa idea viene fuori perché in parte perché io ho una nonna toscana che mi faceva queste cose fin da quando ero piccola, adesso sono in galleria piena, speriamo, e poi dopo che parte la vita l'abbiamo persa. Riproviamo più tardi. con Chiara Manni di ACMA, associazione cinematografica e multimediale abruzzese, per parlare di DocuDì 2017, il giorno del cinema documentario, alla libreria La Feltrinelli a Pescara. Il 24 marzo comincia fino al 21 aprile. Chiara, benvenuta, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, grazie, saluti a tutti voi. Dunque, sì, la rassegna inizia praticamente domani, 24 marzo, e il primo documentario a tempo debito, che è ambientato nel mondo del carcere, quindi tra i detenuti. Sì. E poi abbiamo altre tre proiezioni, una il 31 marzo e un'altra 14 aprile e 21 aprile. E quindi il programma è questo, di questa piccola rassegna che l'ACMA presenta quest'anno, sempre alla libreria La Feltrinelli di Pescara. Senti, gli altri tre titoli? Dunque, gli altri tre titoli, volevo precisare, a tempo debito il regista è Cristian Cinetto. Sì, sì. Poi gli altri tre titoli sono il 31 marzo, Fuori gioco, ed è un documentario molto interessante perché parla di un calciatore che poi non riesce a sfondare il mondo del calcio e diciamo ha un problema di emarginazione sociale. Poi abbiamo Memorie in viaggio verso Auschwitz di Danilo Monte e La malattia del desiderio di Claudia Brignone. Quest'ultimo anche è particolarmente interessante perché è ambientato in un set di Napoli, quindi sempre il mondo della tossicodipendenza. Sì, sì, sì. Tra l'altro li abbiamo avuti tutti i nostri ospiti, per cui conosciamo i lavori. Chiara, ci parli anche un po' dell'esperienza dell'ACMA? Sì, dunque l'ACMA è nata nel 2000 a Pescara e si è all'inizio occupata in particolare di organizzare dei laboratori di cinema e rassegne di cinema. Poi dopo qualche anno è venuta in contatto con un'associazione di Torino che si chiamava Documè, perché ahimè purtroppo Documè ha chiuso, e era un'associazione che si occupava di cinema documentario. Quindi diciamo che da allora ci siamo orientati di più verso il mondo del cinema del reale, preferisco questo più che documentario, che sembra un po' alludere a altro genere di documentari come quelli televisivi, invece noi ci occupiamo di cinema del reale. Sì, quindi sì, questo tenevo a precisare. E niente, siamo andati avanti così, abbiamo poi organizzato nel 2007 la prima edizione di un festival del documentario che è andato avanti fino a due anni fa. Speriamo quest'anno, forse, se riusciamo, con parecchie difficoltà, perché organizzare un festival è una cosa parecchio impegnativa e anche, ahimè, dispendiosa, e noi siamo un'associazione formata unicamente da volontari, quindi possiamo solo, diciamo, basarci su quello che gli enti pubblici mettono a disposizione per la cultura ogni anno, che non è poi così, diciamo, così tanto come dovrebbe essere. Comunque, vediamo se riusciremo ad andare avanti. In ogni caso, noi le rassegne con i documentari del nostro archivio teniamo a farli almeno una volta l'anno, per dare la possibilità a tutti quelli che sono appassionati del cinema del reale, o anche a chi non lo conosce bene, di poter usufruire di queste, diciamo, proiezioni, anche perché nel nostro territorio documentari di questo genere è difficile vederli nei circuiti cinematografici. Mm-hmm. Chiara, ci lasci tutti i vostri riferimenti internet? Sì, dunque, noi abbiamo un sito internet dell'associazione ACMA, www.webacma.it, e poi abbiamo un sito del Festival del Documentario d'Abruzzo, organizzato sempre dall'ACMA, www.abruzzodocfest.org. Inoltre potete su Facebook vedere Associazione ACMA Festival Documentario, abbiamo le pagine Facebook. Benissimo, Chiara, un abbraccio, ricordiamo le date dal 24 marzo al 21 aprile, sì, a Pescara, alla libreria La Feltrinelli. Sì. Un abbraccio, sì, e a presto. Ciao Chiara. Grazie, Grazie a voi, un abbraccio a te e a tutti. Ciao. Chiara Manni di ACMA su Doku D 2017, il giorno del cinema documentario. In collegamento con Marco Pollini, regista del film Moda Mia, in uscita in sala oggi giovedì 23 marzo. Marco, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti, ciao. Allora, subito per chi ci ascolta, Moda Mia di cosa ci parla? Moda Mia è un sogno, il sogno di un ragazzo che vive una situazione difficile familiare, che cerca però in ogni modo di risolvere i suoi problemi familiari, seguire il suo sogno e andare a Milano. Il suo sogno è fare lo stilista, quindi con pochi mezzi e con grande passione, con delle poche stoffe riesce a creare dei vestiti che poi vorrebbe far conoscere a tutto il mondo. Senti, l'idea di partenza da dove viene? Ho conosciuto la scorsa estate un ragazzo sardo che studia effettivamente come operatore della moda e poi è stata costruita una storia con un padre padrone, una sorta appunto di padre che non lo lascia seguire i suoi desideri e una madre che l'ha lasciato, quindi tutto il resto diciamo inventato, è ispirato però alla storia di questo ragazzo sardo. Senti, per la realizzazione come ti sei mosso? In pochi mesi abbiamo fatto tutto, avevo l'urgenza, la voglia di girare qualcosa in Sardegna, quindi è stata scritta la sceneggiatura in poche settimane lo scorso agosto, poi in settembre abbiamo messo assieme il cast e la troupe, quasi tutti attori sardi, e poi abbiamo girato in ottobre. Abbiamo cercato noi da soli come casa di produzione di trovare appunto o investire in questo progetto perché ci credevamo, trovando dei piccoli investitori esterni, però il film è stato praticamente realizzato tutto da noi. Senti, la dimensione sarda? La dimensione sarda bellissima, nel senso ho trovato dei grandi professionisti sia nella troupe sia negli attori. Poi i luoghi dove sono stati girate alcune delle scene sono a me molto cari, sono luoghi stupendi della Gallura tra Cannigione, Palau, Arzachena, quindi veramente grandi professionisti, mi sono trovato molto bene. Senti, la storia è un po' una storia che attraversa i confini, attraversa le epoche, quella di un giovane che si trova a scontrarsi con il mondo che lo circonda per realizzare i propri sogni. Esatto, sì, è una piccola, la voglia di fare un piccolo film poetico anche di speranza per il futuro, dove anche chi vive in provincia, chi ha poche possibilità, riesce comunque a portare avanti i suoi sogni e a arrivare a realizzarli, quindi una piccola favola moderna. Senti, ci racconti anche della vostra piccola realtà di produzione? Sì, abbiamo una società di produzione e distribuzione che si chiama Aora Film, quindi non solo produciamo ma distribuiamo film di qualità, tra cui un film cubano molto bello che si chiama Condotta, candidato anche all'Oscar per Cuba, un film che parla di infibulazione, Fiore del deserto, che è veramente molto apprezzato dal pubblico, siamo riusciti a tenerlo nelle sale più di 8 mesi, e poi altri film di qualità, di nicchia, però che raccontano delle piccole storie con un grande significato. Questo è quello che facciamo insomma, sì, ogni giorno. Senti Marco, per questo film che quante saranno le sale coinvolte, come avete pensato alla distribuzione? Abbiamo circa 20 sale in tutta Italia, soprattutto Cineforum, Cineclub, anche qualche multisale nelle città come Cagliari e Milano. E è difficilissimo trovare degli spazi, però noi con molta tenacia ci proviamo. Quindi queste 20 sale partiranno, poi successivamente il film andrà in altre rassegne in altre cineforum, in altre cineforum, nelle arene estive, insomma cerchiamo di curarlo anche per molti mesi a venire. Senti, ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Sì, il Facebook di Aura Film è appunto facebook.com/AuraFilm, oppure abbiamo dei canali YouTube, Aura Film e Moda Mia, il Facebook di Moda Mia, che è proprio il Facebook del film. Quindi questi sono i riferimenti. Marco, un in bocca al lupo, un abbraccio e a presto. Grazie a tutti, buona giornata a tutti. Ciao, ciao, ciao. Marco Pollini, regista del film Moda Mia, in uscita in sala il 23 marzo, oggi. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema, tutti i giovedì dalle 14 alle 15 in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della Radio Onda Rossa.info, sull'home page ascolta la diretta. Per quanto riguarda le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione, sempre sul sito internet della radio, sempre sull'home page, colonna centrale trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa, l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. Abbiamo recuperato il collegamento con Laura Cini. Ciao Laura, eravamo rimasti alla tua nonna. Eravamo rimasti alla nonna, scusate, ma è una festa di gallerie. Sì, eravamo rimasti alla mia nonna e ho parlato da sola per un po', per cui proprio all'inizio della risposta. La nonna che mi faceva queste cose quando ero piccola. Poi più tardi nella vita, oltre ad essere laureata in cinema, sono laureata in studi geografici antropologici, che è una laurea che ho preso, diciamo, abbastanza recentemente, e lì, studiando la magia da un punto di vista antropologico, ho capito certe cose che da mia nonna ovviamente non capivo. Ho avuto voglia, focolaio, diciamo così, io chiamo piano di signore che pratica la magia proprio in Sicilia, sono di nuovo in Siberia e niente da fare, riproviamo più tardi. Con le gallerie non si ragiona. Eccoci con il regista Cristian Carmosino, promotore della petizione Doppiereste una canzone dei Beatles per i film in lingua originale. Cristian, ben ritrovato. Salve a tutte e a tutti. Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, mi hai mandato questa comunicazione, mi hai molto incuriosito, anche perché diamo spazio spesso anche alle rassegne, ad esempio quella al Centro Sociale Ricomincio dal Faro, che fanno, insomma, presentano delle piccole rassegne di film in lingua originale, per cui raccontaci un po' anche di questa tua iniziativa. Ma guarda, è nata un po' per caso, però diciamo da un pensiero condiviso con amici e colleghi da molto tempo, cioè il fatto che ogni volta che si vuole andare a vedere un film non si trova mai appunto in originale. A noi che piace vederli in originale, ci sono solo un paio di sale a Roma, almeno qui dove siamo, che proiettano i film in lingua originale, mentre tutte le altre sale ti costringono al doppiaggio. E poi insomma ho partecipato su Facebook a un paio di dibattiti sulla questione, nessuno sembra trovare una soluzione a questa cosa. Allora ho pensato di lanciare una petizione in modo da appunto raccogliere i contributi e vedere se questa cosa era condivisa anche da un pubblico più ampio. E quindi ho lanciato la petizione con questa provocazione, doppieresti una canzone dei Beatles, perché effettivamente è un po' per me oggi, che sono abituato a vedere i film in originale, è un po' strano sentire i film e gli attori stranieri parlare una lingua che non è la loro, e secondo me è un'offerta, è una proposta quella dei film in lingua originale in tutte le sale, perché la petizione chiede questo, non è che chiede di non proiettare più i film doppiati, per carità, se qualcuno vuole ancora vedere i film doppiati ne ha il diritto e può farlo. No, però la petizione chiede ai distributori, visto che oggi la tecnologia lo permette, non è più costoso come una volta avere una doppia copia di film, di proiettare tutti i film della programmazione almeno in una quota minima in alcuni spettacoli anche nella lingua originale, in modo che chi poi vuole vedere questi film in lingua originale possa scegliere lo spettacolo a cui andare, quindi per fare di fatto allargare l'offerta e non invece costringere solo a un certo tipo di visione. Senti, Christian, quali sono i passi che avevi in mente di fare insieme a questa raccolta? Guarda, io in realtà sono partito da una semplice raccolta di firme con l'idea di presentarlo al distributore che a Roma poi proietta più film stranieri che di qualità, che è Circuito Cinema, che gestisce numerose sale a Roma, il Fiamma, il Nuovo Olimpia, che sono le due sale che appunto che anche danno il film in lingua originale, ma programma anche il Quattro Fontane, il Dibur e diverse altre sale appunto di questo tipo, che invece non hanno uno spazio nella programmazione di film in originale. E l'idea era di chiedere prima a loro di avere in tutte le sale una programmazione di cinema originale, ma poi insomma parlando con diverse persone si è un po' allargata l'idea, quindi adesso la petizione, l'idea di mandarla a tutti i distributori, perché anche altre sale, anche altri distributori che gestiscono altri film possono ricevere questa sollecitazione. In realtà l'idea parte perché io insomma abito a San Lorenzo a Roma e c'è questo cinema Tibur che non proietta mai i film in lingua originale, quando il pubblico del Tibur è un pubblico di giovani, di studenti, eccetera, e quindi mi sembra che fosse assurdo che una persona come me debba andare al centro al Nuovo Olimpia per vedere un film quando ce l'ha sotto casa, ed è quello che accade regolarmente. Tre settimane fa siccome stavo a casa, che non mi potevo muovere perché ho avuto un piccolo incidente, dovevo uscire di sala di casa per andare al cinema, volevo andare, però non facevo in tempo ad andare al Nuovo Olimpia. Sono andato a vedere Manchester by the Sea al Tibur e sinceramente non vedevo un film doppiato da tanto tempo e ho sofferto tantissimo, perché un film doppiato non solo non parla la lingua originale, ma penalizza fortemente tutta la colonna sonora, perché chiaramente mi ha fatto malissimo e mi ha avuto uno stranissimo effetto di vedere un film dove ci sono anche degli ambienti delle riprese in ambienti aperti eccetera, sentire queste voci registrate in studio. È vero che il doppiaggio, come dicono alcuni, in italiano è tra i migliori del mondo, a parte che secondo me è peggiorato anche negli ultimi anni, ma è anche vero che comunque penalizzi la colonna sonora e quindi la percezione auditiva del film. Quindi questo è da tenere in considerazione, purtroppo è uno dei motivi secondo me più importanti poi per andare a vedere i film in lingua originale. Christian, ci lasci dei riferimenti internet per seguire questa? La petizione sta su change.org quindi basta andare sul sito change.org e cercare la petizione che si chiama Vogliamo i film in lingua originale nelle sale. C'è naturalmente un link che però è troppo lungo e complicato da dire qui in radio, comunque lo trovate anche su Facebook, ma su change.org trovate la petizione. Siamo arrivati a circa 2400 firme, forse ne abbiamo superate in queste ore, e speriamo di arrivare almeno a 3000-5000, perché è un numero già significativo insomma. E poi chissà, il passo successivo, mi chiede i passi, qualcuno proponeva ma perché non facciamo invece una legge o qualche cosa, cioè se i numeri diventano importanti di questa petizione, effettivamente c'è condivisione, forse si può passare insomma a proporlo a istituzioni e fare un ragionamento di tipo diverso, quindi non solo diretto ai distributori ma alle istituzioni che devono garantire del rispetto della qualità di film e della, insomma, della proiezione per come sono stati realizzati, ecco. O almeno comunque il rispetto di tutti i tipi di pubblico, quindi non solo del pubblico analfabeta che vuole il film doppiato, ma anche quello più istruito che ha piacere di vedere un film nella sua lingua originale. Christian, un abbraccio, a risentirci magari per delle novità. Va bene, grazie mille per lo spazio, insomma, per questa petizione. Credo sia anche una battaglia di civiltà, non è solo una battaglia di, diciamo, per la visione dei film, ma insomma è un paese che sta indietro culturalmente, che non conosce le lingue, non le impara, e questo è sicuramente anche un passo utile e importante in questa direzione. Ciao Christian, un abbraccio. Ciao Federico. Ciao. Ciao. Allora, terzo e ultimo tentativo, anche perché gli ospiti li abbiamo finiti. Laura Cini, ci sei rimasta solo te, eravamo rimasti ai tuoi studi e poi sei andata avanti, immagino, dentro una galleria a parlare, ma non c'eravamo più noi. No, in realtà io vi sentivo, però ho capito che non mi sentivate più. Tanto se la Fiorina di nuovo, vi ringrazio di avermi invitata. Continuo con anche degli studi in antropologia, poi ho valutato, visto l'importanza di quello che faceva mia mamma, quindi l'ho studiata in maniera più approfondita, e poi in Versilia ho cominciato a fare delle ricerche e ho visto che in Versilia c'era ancora un focolaio magico, io lo chiamo, un posto pieno di signore, almeno quando ho girato il documentario, che praticano la magia popolare. Senti, su cosa si basa questa magia popolare? Allora, diciamo che la signora su cui ho fatto il documentario in realtà fa un rito con l'acqua e l'olio di oliva per leggere e guarire o la paura o il malocchio, ma in realtà poi nella mia interpretazione della cosa, a prescindere dal rito in sé, la cosa importante per me di queste donne, poi possono essere anche uomini, ma di solito sono più femmine, che hanno una funzione ben precisa nel, diciamo, io le chiamo le custodie ancestrali, nel gestire ancora la parte istintiva, la parte che ci lega alla forza che dice l'universo, che noi poi siamo andati, da cui noi siamo andati allontanandoci, e quindi ritirano questo meccanismo, questo istinto. No, è risuccesso. Aspettiamo qualche secondo perché non ci sarà un'altra possibilità. Pronto? Eccoci, ti stavo per abbandonare nuovamente, ho detto resistiamo un attimo. Mi dispiace, non me la ricordavo di tante galerie sulla tratta Firenze-Roma. Io invece mi è corso un brivido quando mi hai detto che sarebbe stato quello il tragitto, sì. Ok, vai, adesso ti risentiamo. Sì, non so dove se mi avesse sentito tutta, perché io avevo anche finito. per conto mio. Allora passiamo, diciamo, alla lavorazione del film. Com'è andata? La lavorazione è andata abbiamo lavorato con Kine, questa produzione documentaria che è stata a Bologna e anche una in Toscana, e ho cominciato a fare un periodo lungo di ricerca lavorando con più di una di queste donne, tipo 3 o 4 donne. Poi ci siamo concentrati su Eze, che è la protagonista del documentario, perché oltre a svolgere questa funzione di cui parlavo prima, ma non so se stavo parlando a sola, di appunto di essere un trade union tra noi e l'istinto da cui ci siamo andate allontanandosi, mi piaceva molto perché aveva questa casa molto particolare, era una casa totalmente aperta. No, è nuovamente scomparsa dalla comunicazione, anche qui aspettiamo qualche secondo, ma se non va, mi spiace. Allora, intanto vi ricordo che questa è Visionari, il cinema. Stavolta l'abbiamo persa. E Visionari su Radio Onda Rossa, siamo in conclusione della puntata di questa settimana, tutti i giovedì dalle 14 alle 15 in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page ascolta la diretta. Per le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione è sempre il sito della radio, sull'home page colonna centrale trasmissioni Visionari, la pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa, l'indirizzo di di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.